Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Passaggio in India, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Adriana Motti. Mentre il dottore Aziz tornava alla sua casa, che era in un bel giardino un po' più oltre, lungo la strada principale della città, scorse davanti a sé il suo vecchio protettore che sguazzava e saltellava nella mota. «Salve!» gridò. Era la parola sbagliata, perché quel religioso uomo, molinando le braccia, fece capire che non voleva essere disturbato. Aziz soggiunse «Scusatemi». E questa era la parola giusta, tanto vero che Godbo le girò il capo finché questo non appartenne più al suo corpo, e con una voce forzata, che non aveva nessun rapporto col suo animo, disse «Lui è arrivato alla foresteria europea, forse. Almeno è possibile». «Davvero? Quando?» Ma il tempo era una cosa troppo definita. Godbole agitò il braccio in modo più vago e scomparve. Aziz sapeva chi fosse quel lui, Fielding, ma rifiutava quel pensiero perché sconvolgeva la sua vita e si augurava che le inondazioni gli impedissero di arrivare. Un bel torrente usciva dal cancello del suo giardino e risollevò le sue speranze. Impossibile che qualcuno riuscisse a fare il tragitto da Deora con un tempo simile. Fielding veniva in visita ufficiale. Era stato trasferito da Chandrapur e mandato in missione nell'India centrale a ispezionare come si regolavano gli stati più lontani nei confronti della scuola inglese. Si era sposato. Le cose con Miss Quested erano andate come si prevedeva e Aziz non aveva nessuna voglia di rivederlo. «Caro vecchio Godbole», pensò e sorrise. Privo di qualsiasi curiosità religiosa, non aveva mai scoperto il significato di questa farsa annuale, ma aveva l'assoluta certezza che Godbole fosse un caro vecchio uomo. Era venuto a Mau grazie a lui e ci rimaneva per lui. Senza il suo aiuto non sarebbe mai arrivato ad afferrare problemi così totalmente diversi da quelli di Chandrapur, perché qui la scissione era tra bramini e non bramini. Musulmani e inglesi erano del tutto fuori gioco. A volte non se ne parlava per giorni interi. Dal momento che Godbole era un bramino, per fini pratici lo era anche Aziz. Era una cosa su cui spesso scherzavano tra loro. Le crepe nel suolo indiano sono infinite. L'induismo, così solido a distanza, è diviso in sette clan che divergono e si uniscono e mutano i loro nomi secondo l'aspetto da cui li si considera. Studiatelo per anni coi migliori maestri, e quando alzate il capo, nulla di ciò che vi hanno detto corrisponde esattamente. Aziz, il giorno del suo insediamento, aveva osservato «Io non studio nulla, io rispetto», conquistandosi la loro stima. Ormai le prevenzioni contro di lui erano quasi sparite. Di nome dipendeva da un dottore indù, ma di fatto era capo stregone a corte. Dovrebbe lasciar perdere le vaccinazioni e simili ghiribizi occidentali, ma anche a Chandrapur la sua professione era stata un gioco che si svolgeva intorno al tavolo operatorio, e qui, nelle foreste selvagge, egli lasciò arrugginire i suoi ferri, mandando avanti il suo piccolo ospedale a bassa pressione e senza provocare indebiti allarmi. Il suo impulso di scappare dagli inglesi era fondato. Avevano atterrito per sempre, e contro il terrore non ci sono che due modi di reagire: scalciare e prendersela con le comunità, o ritirarsi in una giungla lontana dove il Sahib compaia raramente. I suoi vecchi amici avvocati volevano che restasse nell'India britannica per aiutare l'agitazione e avrebbero potuto spuntarla, non fosse stato per il tradimento di Fielding. La notizia non l'aveva stupito affatto. Tra loro si era formata un'incrinatura dopo il processo, quando Fielding non si era unito al corteo. Quelle perorazioni in favore della ragazza l'avevano approfondita. Poi erano arrivate le cartoline da Venezia, così fredde, così poco amichevoli da far pensare a tutti concordemente che qualche cosa non andava. E alla fine, dopo un lungo silenzio, l'attesa lettera da Hampstead. Con Aziz, in quel momento, c'era Mahmoud Ali. «Una notizia che vi sorprenderà. Sto per sposare una persona che conoscete». Lui non aveva letto altro. «Ci siamo. Rispondi tu per me». E aveva gettato la lettera a Mahmoud Ali. Le lettere successive le strappò senza aprirle. Fu la fine di uno sciocco esperimento. E sebbene talvolta sentisse in fondo all'anima che Fielding per lui aveva fatto dei sacrifici, ormai tutto era impastato col suo autentico odio per gli inglesi. «Finalmente sono un indiano», pensava, là, fermo sotto la pioggia. La sua vita scorreva in modo gradevole. Il clima era salubre, tanto che poteva tenere i bambini con sé tutto l'anno. Si era risposato, non un vero e proprio matrimonio, ma gli piaceva considerarlo tale. E leggeva i suoi poeti persiani, scriveva le sue poesie, aveva il suo cavallo e talvolta giocava un po' a shikar, quando quegli ottimi indù guardavano dall'altra parte. All'indomani della grande cerimonia religiosa, Aziz aveva la mattina libera e propose ai bambini di andare al santuario. Jamila gli dava la mano, Ahmed e Karim correvano avanti. Un alto, slanciato edificio ottagonale stava sulla sommità dell'erta, circondato di cespugli. Era il santuario della testa. Non aveva tetto e in realtà non era che un giro di pareti. Nell'interno vi si rannicchiava una cupoletta dentro la quale, visibile attraverso una grata, c'era una tomba tronca, avvolta in un panno di calicò. Gli angoli interni delle pareti erano ingombri di nidi d'api. Discendeva un'incessante, dolce pioggia di ali spezzate e di altri corpuscoli eterei che avevano coperto con la loro lanugine il pavimento umido. Ahmed, che aveva appreso da Mohammed Latif gli usi delle api, disse: «A noi non faranno male, che conduciamo una vita casta», e si spinse arditamente all'interno. La sorella fu più cauta. Riferirono poi che c'erano giù due uomini in tenuta militare. Fielding e il cognato, invece di riposare dopo il viaggio, stavano salendo l'erta verso la tomba del santo. «Li prendiamo a sassate?» domandò Karim. «Gli mettiamo polvere di vetro nel pan?» «Ahmed, sei troppo cattivo, vieni qui!» Aziz alzò la mano per colpire il primogenito, ma lasciò che quello invece gliela baciasse. Era un conforto avere accanto i figli in un momento simile e saperli così affezionati e coraggiosi. Spiegò che gli inglesi erano ospiti di Stato e quindi non bisognava avvelenarli, e le sue parole riscossero come sempre un sommesso ma entusiastico consenso. I due visitatori entrarono nell'ottagono, ma ne uscirono subito a precipizio inseguiti da un nugolo di api. Correvano in qua e in là dandosi colpi sulla testa, i bambini li canzonavano urlando e dal cielo, come se fosse stato tolto un tappo, venne giù un bel rovescio d'acqua. Aziz non aveva avuto intenzione di salutare l'amico di un tempo, ma quell'incidente lo mise di ottimo umore. Si sentiva solido e forte e gridò: «Salve, signori! C'è qualcosa che non va?» Il cognato gettò un grido. Un'ape l'aveva punto. «Sdraiatevi in una pozzanghera, signore! Ce ne sono tante qui! Non mi venite vicino! Io non ho potere su di loro! Sono api di Stato! Lamentatevi del loro comportamento con sua altezza!» Non c'erano veri pericoli, perché la pioggia stava aumentando e lo sciame si ritirò nel santuario. Aziz si avvicinò al forestiero e gli estrasse dal polso un paio di pungiglioni, dicendogli: «Su, fatevi coraggio, siete uomo!» «Oh, Aziz! Da quanto tempo? Come state?» «Mi avevano detto che vi eravate sistemato qui», gli disse Fielding, ma non con voce cordiale. «Credo che qualche pungiglione non sia preoccupante.» «Affatto, vi manderò un linimento alla foresteria. Mi hanno detto che siete sistemati là.» «Perché non avete risposto alle mie lettere?» domandò Fielding mirando al sodo, ma senza raggiungerlo, per colpa degli scrosci di pioggia. Il suo compagno, nuovo al paese, sentendo rimbalzare le gocce sul suo casco, gridò che le api stavano tornando all'attacco. Fielding troncò piuttosto bruscamente quelle commedie e poi disse: «C'è una scorciatoia per scendere alla nostra carrozza? Dobbiamo rinunciare alla passeggiata, il tempo è pestifero.» «Sì, sì, per di là.» «Non venite giù anche voi?» Aziz accennò un inchino burlesco. Come tutti gli indiani, aveva il genio delle piccole impertinenze. «Io tremo. Io obbedisco», diceva quel gesto, e con Fielding non andò perduto. «Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diwana sanam, tujhe dekha to ye jana sanam.» Per un viottolo accidentato si incamminarono verso la strada, i due uomini avanti, il cognato, ragazzo più che uomo, dietro, in agitazione per il braccio che gli doleva. I tre bambini indiani per ultimi, chiassosi e impudenti. Tutti e sei fradici d'acqua. «Come va, Aziz?» «Di salute, come sempre.» «Riuscite a ricavare qualcosa dalla vostra vita in questo posto? E voi? Che cosa ricavate dalla vostra?» Frattanto avevano raggiunto la carrozza. «Salite, Mr. Quested, e anche voi, Mr. Fielding.» azzardò Aziz. «Chi diavolo sarebbe Mr. Quested?» chiese Fielding. «Ho pronunciato male quel nome tanto noto? Non è il fratello di vostra moglie? E chi diavolo credete che io abbia sposato?» «Io sono soltanto Ralph Moore», disse il ragazzo arrossendo. E in quel momento cadde un altro rovescio di pioggia, che fece come una piccola nuvola intorno ai loro piedi. Aziz cercò di allontanarsi, ma era troppo tardi. «Quested? Quested?» diceva Fielding. «Ma non sapevate che mia moglie è la figlia di Mrs. Moore?» Aziz, preso da un tremito, si imporporò di un rossore grigiastro. Quella notizia gli era odiosa. Gli era odioso sentire il nome Moore. «Forse questo spiega il vostro strano atteggiamento», riprese Fielding. E cosa c'è che non va nel mio atteggiamento? Scusate. Ma la lettera assurda che avete fatto scrivere a vostro nome da Mahmoud Ali? Questo è un discorso proprio inutile, mi pare. Ma come diavolo avete fatto un simile errore? Disse Fielding, più cordiale di prima, ma sarcastico e canzonatorio. È quasi incredibile. Direi che vi ho scritto una mezza dozzina di volte facendovi il nome di mia moglie. Miss Quested! Che razza di idea! Dal suo sorriso, Aziz intuì che la moglie di Fielding era bella. Miss Quested è la nostra migliore amica, è stata lei a presentarci, ma che idea sbalorditiva! Aziz, più tardi dobbiamo chiarire questo malinteso. È chiaro che si tratta di qualche diavoleria di Mahmoud Ali. Lui sa benissimo che ho sposato Miss Moore. L'ha chiamata la sorella di Hislop in quella sua lettera insolente. Quel nome destò le furie di Aziz. E lo è? E questo è il fratello di Hislop. E voi siete suo cognato. E addio! La vergogna si tramutò in una rabbia che gli restituì tutto il suo amor proprio. Che me ne importa chi avete sposato? Non seccatemi qui a Mau, non vi chiedo altro. Non vi voglio. Non voglio nessuno di voi nella mia vita privata. Lo dico col mio ultimo respiro. Sì, ho fatto uno stupido errore. Disprezzatemi e trattatemi pure freddamente. Credevo che aveste sposato la mia nemica. Non ho mai letto la vostra lettera. Mahmoud Ali mi ha ingannato. Credevo che aveste rubato il mio denaro, ma... Congiunse le mani con forza e i figli si strinsero intorno a lui. È come se lo aveste rubato. Io perdono tutto a Mahmoud Ali, perché mi voleva bene. E dopo una pausa, mentre la pioggia pareva una scarica di pistolettate, disse: «D'ora in avanti, nel mio cuore è per il mio popolo». E si allontanò. Fielding lo seguì nel fango e si scusava. Rideva un poco, voleva discutere e cercare di capire, spiegava con logica inoppugnabile che non aveva sposato la fidanzata di Hislop, ma la sorella di Hislop. Che importava a quell'ora del giorno? Lui aveva costruito la propria vita su un errore, ma l'aveva costruita. Parlando in urdu, perché i figli capissero, disse: «Vi prego di non seguirci, chiunque abbiate sposato. Voglio che nessun inglese sia mio amico, né uomo né donna». Tornò a casa esaltato e felice. Era stato un momento penoso, spiritato, quando era venuto fuori il nome di Mrs. Moore, che faceva rivivere tanti ricordi. Mrs. Moore, come se lei stesse venendo in suo aiuto. Era stata sempre così buona. E quel ragazzo che lui aveva appena guardato era suo figlio, Ralph Moore. Stella e Ralph, coi quali lui aveva promesso di essere gentile. E Stella aveva sposato Mr. Fielding. Thank you. ते सूर्य सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा श्रीवक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा श्रीवक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा श्रीवक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा Buongiorno, sono Federico Tiezzi, spetta a me la chiusura di queste puntate di lettura. L'argomento del romanzo è una funzione che serve a Forster per svelare un mondo che è quello coloniale, chiuso e razzista degli inglesi in India all'inizio del Novecento e insieme serve a svelare il mondo indiano immerso nel magma della sua tribalità. Qual è questo punto, il fuoco centrale di questa prospettiva del racconto? È una sciaguratissima gita alle grotte Marabar, nella quale non si sa bene cosa sia avvenuto. Certo, quello che là dentro è avvenuto, probabilmente il trovarsi da parte della protagonista Adela Quested di fronte alla sua coscienza, alla sua rimozione dell'amore, provoca uno scandalo che serve a Forster per mettere in evidenza quel guazzabuglio inesplicato che è per lui l'India. Non ci sono nel romanzo indiani nativi buoni e inglesi cattivi e imperialisti. C'è un'equilibrata e ironica descrizione di un conflitto fra due visioni del mondo. Visioni del mondo che dall'estetica alla morale, dall'amministrazione della giustizia all'amore risultano totalmente inconciliabili. L'Occidente non potrà mai capirsi con l'Oriente. È questo che ci dice Forster in questo romanzo. Con questa vicenda gli ascoltatori si sono trovati davanti alla burocrazia britannica che conduce la sua guerra fredda contro gli indiani, sia che si tratti di islamici, sia che si tratti di indù. Nell'equilibrio dettato dai colonizzatori inglesi entra improvvisamente una variabile impazzita. Adela Quested, una donna che non ama il mondo conformista, banale dell'Anglo-India, quello dei funzionari e delle cene al club. Lei vuole conoscere la realtà e si fa accompagnare da un medico, Aziz, a vedere delle grotte famosissime nella zona. Così gradualmente questa figura femminile, lo avete sentito, è diventata il perno intorno al quale è girato in maniera sconvolta un mondo che sta perdendo il suo equilibrio e che comincia a svelarsi come è, profondamente razzista, pieno di contraddizioni. In sostanza, questi due continenti, l'Oriente e Occidente, non riusciranno mai a capirsi, a parlarsi. E così nell'ultima frase del romanzo, Mr. Fielding, il personaggio che è ponte tra il mondo indiano e quello inglese, Mr. Fielding nell'ultimissime frasi del romanzo chiederà al giovane medico di essere amico suo per sempre. Il giovane medico, che vi ricordo, assolto dalle accuse infamanti, si è trasferito nel Kashmir. Ma, si legge nel romanzo, l'India ancora non vuole. E tutto rimarrà ancora una volta separato, nonostante che l'ultima immagine ci porti davanti agli occhi due uomini che in un ultimo respiro quasi amoroso stanno facendo a loro volta una gita nelle campagne del Kashmir. Ma i cavalli scartano e l'India stessa proibisce l'unione di due visioni del mondo. Le visioni del mondo devono rimanere separate. Sandro Lombardi ha letto Passaggio in India di Edward Morgan Forster, postfazione di Federico Tiezzi, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carubolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.